Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il giallo dell'uomo impiccato sulla grande viabilità triestina. Solo l'autopsia fornirà risposte. Potrebbe trattarsi di un iraniano senza fissa dimora. Presidiare la fiera di Santa Giustina. Lo chiede il comune di Palmanova dopo la maxi rissa organizzata tra giovanissimi. Le frecce tornano a volare dopo l'incidente di Caselle costato la vita a una bambina. Solo sorvolo su Trento e Bolzano. Al via i lavori per l'impianto di bonifica dell'area ex Cogolo Asan di San Giorgio di Nogaro. 5 anni per risanare la falda. Comitato No Inceneritore a Spilimbergo per denunciare l'inquinamento delle falde inquinanti, tripli rispetto ai limiti. Via i lavori per l'impianto di bonifica nell'area Cogolo. Quasi 2 milioni e 5 anni per ripulire le acque della ex conceria. Udinese, il secondo peggior attacco del campionato, si prepara alla trasferta di mercoledì a Napoli al Friuli, fischi dei tifosi. La storia incredibile dell'operazione Atlantide, esperimenti subacquei estremi nel lago di Cavazzo tra 1969 e 1970. 12:31 minuti, buongiorno da Daniele Letti, Gerita Micoli. In apertura abbiamo ancora il giallo sulla morte dell'uomo trovato ieri mattina senza vita, penzolante dal guardrail della grande viabilità triestina, legato e bendato. Gli inquirenti fino a ieri non escludevano alcuna ipotesi, tanto quella di un omicidio quanto quella di un atto volontario. Sentiamo le ultime su un caso che ha scosso non solo la città di Trieste. Sul fascicolo della notizia di reato della PM Maddalena Chergia c'è scritto soltanto ritrovamento di cadavere da impiccamento, non ha ancora un nome. L'uomo di mezza età, attorno ai 50 anni, trovato impiccato nella mattina di ieri sul tratto della grande viabilità che dal porto di Trieste conduce verso Mugge, le arterie autostradali principali. L'autopsia disposta non è ancora stata effettuata dalla medica legale incaricata, che però ha ispezionato per 2 volte il cadavere, la prima sul posto in una tenda montata dalla protezione civile, la seconda nel tardo pomeriggio di ieri. Il risultato è osservato, ma sono emerse ipotesi sull'area geografica di provenienza e anche sull'identità dell'uomo. Potrebbe trattarsi di un senza tetto iraniano o afghano. La morte sarebbe avvenuta tra le 36 e le 48 ore precedenti al ritrovamento della salma. In quell'arco temporale si concentrano le ricerche dei carabinieri sulle registrazioni delle tante telecamere di sorveglianza della zona. Non ci sono ancora elementi per escludere l'intervento di una seconda persona e quindi di un omicidio, ma tutto sembra suggerire che si tratti di un gesto estremo. In una tasca interna della camicia sono stati trovati dei bigliettini con frasi scritte a penna in farsi e in italiano, ma senza un senso compiuto. Sul posto diversi reperti compatibili con l'ipotesi: del nastro adesivo, una bottiglia spezzata, alcuni mozziconi di sigaretta. Rimangono tuttavia molti dubbi: perché proprio in quella zona e perché il capo era bendato e le mani erano legate tra di loro, sebbene a una distanza che avrebbe permesso di svolgere altre operazioni prima di impiccarsi? Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. La Scuola di Pace di Staranzano presenta oggi il laboratorio Comunità di Pace, un progetto di costruzione di una comunità multilingue impegnata a formare educatori, insegnanti e studenti. Un progetto di volontariato inclusivo e ambientalista che si sostiene grazie ai bandi nazionali ed europei e alle donazioni di privati. Recentemente ha ricevuto il patrocinio dell'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, AICRE, che sarà presente all'incontro previsto alle 19 in via Zambon a Staranzano. Abbiamo intervistato l'organizzatrice Asena Barbana. L'invito è a tutti quelli che sono interessati a un percorso di educazione di pace in modalità di pedagogia naturale, e tutti quelli che credono che l'educazione non è solo da fare in quattro mura e soprattutto non è solo da rivolgere al bambino o al ragazzo. L'educazione è da fare a tutta la comunità che assieme ai bambini e ai ragazzi cresce. Ci mettiamo ad un tavolo insieme agli altri componenti, diciamo così, della comunità in cui vorremmo educare i nostri bambini e ragazzi, a dialogare e a fare attività anche di formazione. Chi sono i componenti della rete che avete messo insieme? È una piccolissima rete internazionale, ci sono associazioni di tipo ONLUS, scuole e centri di educazione. Per esempio abbiamo il centro di educazione di Aurobindo in Sud India, abbiamo una scuola Montessori dentro una riserva nativa americana in Nord America. Sono realtà piccole, particolari, anche a stretto contatto con la natura, secondo metodologie che rispettano lo sviluppo naturale del bambino. Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Tornano a volare, ma non a esibirsi in acrobazia, le frecce tricolori. Per esigenze tecniche e in segno di lutto dopo il tragico incidente di Torino, costato la vita a una bambina di 5 anni, era stata annullata l'esibizione della pattuglia acrobatica nazionale in Trentino Alto Adige, inizialmente prevista nell'ambito della manifestazione Festivolare di Trento. Oggi, comunque, le frecce effettueranno un semplice sorvolo dei due capoluoghi, con rilascio della scia tricolore. Si comincerà alle 14 sui cieli di Trento e a seguire ci sarà Bolzano, ma senza voli acrobatici. Ora uno sguardo al meteo. Il cielo è sereno, poco nuvoloso sulla regione. Le temperature registrate alle 11 a Trieste 21 gradi, vento da est nord-est, bora 60 km orari, con raffiche che hanno raggiunto gli 80 km orari. Mare molto mosso, con temperatura di 24 gradi. A Udine e Pordenone 21 gradi, a Gorizia 23 gradi e 5 decimi. A Tarvisio 13 gradi, a Sappada 14 gradi e 5 decimi, a Forni di Sopra e sul Piancavallo 15 gradi e mezzo, a Tolmezzo 17 gradi e 5 decimi, sul Monte Lussari 6 gradi e 5 decimi, sullo Zoncolan 9 gradi e 5 decimi, sulla costa Lignano 19 gradi e mezzo, grado 20, temperatura del mare nelle due località 22 gradi. E ora le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia. Nelle prossime ore tempo stabile con cielo sereno, poco nuvoloso e marcata escursione termica in pianura. Sulla costa in quota soffierà vento da nord-est moderato in intensificazione e di bora dal pomeriggio sera, specie su Trieste dove potrà farsi sostenuta. E ora torniamo alla cronaca. A Palmanova lo sconcerto per la maxi rissa organizzata, a cui sabato pomeriggio hanno preso parte decine di giovanissimi. Dal comune la richiesta di un presidio delle forze dell'ordine nei prossimi fine settimana. Ragazzini di 14, 13, 15 anni sono picchiati in mezzo alla strada. Sarà rinforzata la vigilanza delle forze dell'ordine alla fiera di Santa Giustina di Palmanova, dopo la rissa che ha coinvolto sabato decine di ragazzi minorenni a Luna Park, in Piazza Grande. Arrivati coi mezzi pubblici nella città stellata, al pomeriggio e ripartiti con bus e treni prima delle 8 di sera. Il comune ha scritto a questura e prefettura per assicurarsi che questi episodi non si ripetano più da qui all'8 ottobre, quando saranno smontate le giostre. Luca Piani, vice sindaco di Palmanova. Questi ragazzini che direi da tutta la regione si sono trovati attraverso i social media, TikTok, a Palmanova per azzuffarsi. E non vogliamo che queste cose risuccedano in una città tranquilla come quella di Palmanova. Ringrazio i carabinieri per l'intervento, Piani, ma sottolinea, già gli organici delle forze dell'ordine sono risicati per manifestazioni come queste, figuriamoci per gestire un eventuale hotspot a Ialmicco. A qualche episodio assistiamo ogni tanto, ma non di queste dimensioni, indica chi gestisce Luna Park. Una decina di adolescenti venuti alle mani, tanti altri, fino a un centinaio, spettatori dell'accaduto. Tutti si sono dileguati all'arrivo della pattuglia e non c'è stato nessun fermo né denuncia. Le autorità al momento propendono per una zuffa spontanea e non preorganizzata, ancora non chiare le motivazioni. Qualche episodio si è verificato anche in passato, segnalano gli esercenti. L'anno scorso a noi è successo che un ragazzo si è nascosto dietro qua nel bagno, non voleva uscire perché lo cercavano. Ed erano qua davanti che passavano. La settimana scorsa si vedeva già che c'erano dei gruppi abbastanza numerosi di ragazzini, ecco, questo sì. Preoccupato per il prossimo weekend? Mi auguro di no, perché penso che chi dovrà prenderà sicuramente le giuste precauzioni. Palmanova, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Spilimbergo la protesta del comitato No Inceneritore fuori dal cinema Miotto, dove è in corso un convegno sulla salute dell'acqua. Secondo i manifestanti, l'acqua di falda è contaminata da cromo esavalente in quantità 3 volte superiori ai limiti di legge. Un convegno al Teatro Miotto di Spilimbergo dedicato all'acqua e organizzato nell'ambito della rassegna Ascoltare, Leggere, Crescere è diventato occasione di protesta del comitato No Inceneritore. Gli attivisti denunciano la presenza di falde inquinate da cromo esavalente nei pressi dell'inceneritore, come rilevato da una richiesta di accesso agli atti su controlli ARPA con una concentrazione 3 volte superiore al limite. Per il coordinamento No Inceneritore, Francesco Franz. Le nostre richieste sono semplici. oggi. In primis che le autorità, il comune da primo, si faccia carico di tutte le ordinanze e gli atti dovuti per leggi per tutelare la salute pubblica, sia a livello dell'inquinante del cromo, sia a livello dell'inquinante del mercurio. Il secondo è che vogliamo sapere lo stato sia di finanziamento sia di svolgimento di questo studio epidemiologico e soprattutto le sue caratteristiche. Il comitato attendeva l'assessore Scoccimarro, il quale, da noi contattato, si è detto impossibilitato a partecipare ma pronto a rispondere in trasparenza. Ha specificato che il sito inquinato è a monte e che c'è un procedimento in corso da parte della regione cui ARPA fa da supporto. Enrico Bressane è responsabile della qualità delle acque interne per ARPA regionale. Questa attività ha evidenziato una presenza in falda di questa sostanza e probabilmente dovuta in questi anni a degli andamenti altalenanti della falda. Adesso nel procedimento di sito contaminato che la regione sta seguendo come autorità competente con il supporto di ARPA per l'attività tecnica, e andremo ad evidenziare quali sono le soluzioni ottimali per contenere questa contaminazione. Spilimbergo, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sono iniziati i lavori per la realizzazione dell'impianto di bonifica di acque di falda nel sito ex Cogolo a San Giorgio di Nogaro per conto del Consorzio di Bonifica della Pianura Friulana, che su delega del Comune ha curato la progettazione. I lavori sono affidati a Gesteco, che realizzerà una rete di 12 pozzi barriera per l'estrazione delle acque di falda inquinate in quell'area da cloruro di vinile a causa dell'attività conciaria storicamente svolta nel sito, ha spiegato il direttore generale del consorzio Armando Di Nardo. Il nuovo impianto di depurazione delle acque pompate dalla falda inoltre ricondurrà i valori dei parametri entro i limiti per lo scarico di acque reflue in fognatura. L'impianto è concepito per una durata in esercizio di 5 anni, tempo stimato per il completo risanamento della falda. Le attività di monitoraggio periodico saranno svolte a stretto contatto con l'ARPA. I lavori dureranno circa 3 mesi per un costo di 1.775.000 euro, di cui 800.000 per la realizzazione dell'impianto e il resto per l'attività di gestione quinquennale. La presidente del consorzio, Rosanna Clocchiatti, ha ricordato come la bonifica ambientale sia ormai entrata a pieno titolo fra le attività richieste al consorzio dal territorio e dalle istituzioni. Nella stessa zona è in corso un'altra attività di bonifica ambientale dell'area Caffaro e altre sono in corso nel comprensorio consortile. La campagna nazionale di Mare Vivo Replant dona ossigeno al pianeta in collaborazione con l'Università di Trieste ha concluso la piantumazione nel Golfo di Trieste di 100 metri quadrati di Cimodocea nodosa, una pianta della famiglia delle fanerogame di cui fa parte anche la Posidonia oceanica con circa 2000 talee piantate. La nursery è in buono stato e viene monitorata costantemente per valutarne la crescita, il tasso di espansione e il livello di accrescimento di biodiversità. Le foreste del mare sono preziose per la nostra sopravvivenza, dal momento che assorbono una quantità di CO2 35 volte maggiore rispetto a quelle terrestri. Il mare produce più del 50% dell'ossigeno che respiriamo. Pensiamo che una prateria di soli 2 metri quadrati rilascia in media al giorno una quantità di ossigeno pari a quella prodotta da un albero adulto. La nursery piantata dovrebbe quindi produrre nel tempo l'equivalente di ossigeno di 50 alberi. Siamo ora agli spettacoli. I Pooh di nuovo insieme ieri sera a Villa Manin sono stati in migliaia ad applaudire una delle band più longeve del pop italiano. Nonostante abbandoni, veri o presunti scioglimenti, chitarre appese al chiodo, continuano invece imperturbabili a calcare i palchi del bel paese con concerti che mobilitano non solo il popolo degli aficionados, ma anche chi ama i viaggi nella storia della musica leggera italiana. Loro sono i Pooh, che a Villa Manin di Passariano hanno richiamato oltre 6.000 persone per il loro unico concerto in regione, dal titolo oltremodo indicativo di stare assieme di questo gruppo, ovvero Amici per Sempre. Quella di poi una carriera dei grandi numeri, dal 1966 ad oggi hanno pubblicato 59 album, di cui 31 in studio, e venduto oltre 100 milioni di copie in carriera, ad oggi un record assoluto per una band nazionale. una produzione accompagnata da sempre da un'intensa attività live che prosegue ancora con lo stesso entusiasmo di sempre. Alla dimora dogale di Passariano, Robby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canziano e Riccardo Fogli hanno proposto 45 canzoni per quasi 3 ore di spettacolo. In scaletta tutti i pezzi celebri della band, Infiniti Noi, Piccola Chetti, Uomini Soli, Tanta Voglia di Lei, fino alla grande finale con Chi Fermerà la Musica, che, detto dai più, pare impresa oltremodo ardua. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Ora lo sport, il calcio, la sconfitta dell'Udinese di ieri, un secco 2-0 dalla Fiorentina, nonostante le molte occasioni prodotte, lascia i bianconeri nella zona rossa della classifica con soli 3 punti in 5 giornate. E mercoledì sera la squadra è attesa dalla trasferta a Napoli, in casa dei campioni d'Italia. Numeri al contrario per l'Udinese: gioca, tira 20 volte, 8 nello specchio della porta, ma perde. Contro la Fiorentina il secondo KO in 5 gare, 3 punti, solo pareggi per una classifica che costringe i friulani nella zona rossa. La causa? Il gol che non arriva. Una sola rete in 450 minuti, secondo peggior attacco del campionato dopo l'Empoli. I fischi dei tifosi dopo la sconfitta con la Viola sono la reazione alle occasioni non sfruttate, 2 le più clamorose. Toven nel primo tempo e Lucca nella ripresa. Sentiamo il tecnico Andrea Sottil. Purtroppo bisogna accettare questo verdetto, però bisogna anche capire che bisogna essere più cinici là davanti, ma non è che sto accusando nessuno, cioè io lavoro con loro tutti i giorni, quindi nella nostra categoria, ma in tutte le categorie, se lasci partite aperte e poi ci può stare che nell'unica azione che la Fiorentina ha messo il muso nella nostra metà campo ci hanno fatto gol. Preoccupa la situazione assenze. In attacco Brenner e Davis, acquistati nel mercato estivo, hanno tempi lunghi di recupero e Deulofeu continua a lottare con un ginocchio infortunato. Con lo spagnolo in campo l'Udinese ha conquistato 27 punti in 16 gare, senza di lui 22 punti in 27 partite, meno di uno a gara. La ricetta, dice Sottil, il lavoro senza deprimersi a 2 giorni dalla trasferta di Napoli. Cioè, non è che va tutto bene, cioè va bene la prestazione, va bene la crescita, però non va tutto bene. Adesso andiamo a Napoli e abbiamo fatto la partita tosta. Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia. Si è conclusa ieri con l'ultima giornata di regate sotto le raffiche di Bora l'edizione 2023 della Settimana Velica Internazionale, che per 2 weekend ha visto protagonisti sui diversi campi di regata dello Yacht Club Adriatico 75. Dello Yacht Club Adriatico, 75 imbarcazioni suddivise tra le classi Melges 24, ORC, Open e Maxi. Nella classe Melges, regate valide anche come tappa del circuito European Sailing Series, successo del team triestino di Stramba Papà di Giovanna Miccol, con Michele Paoletti al timone. Secondo posto che va al tedesco White Room di Michael Tarabocchia, mentre il terzo gradino è per il britannico Jill Race Team di Miles Quinton. La top 5 è completata dall'italiano Arcanoe de Bay Montura di Sergio Caramel, che precede l'ungherese Chinook di Akos Xolto. Nella flotta ORC tutto si è giocato nell'ultima prova della serie, sul filo dei punti. Al termine è emerso il nome di Lady Day 998 del padrone di casa dello Yacht Club Adriaco, Corrado Annis, che vince di soli 0,2 punti ai danni di Cava di Andrea Sponza, compagnia della vela. Al terzo posto Take 5 Junior di Roberto Di Stefano dello Yacht Club Porto San Rocco. Lady Day 998 si aggiudica anche la vittoria nella Inshore Race di sabato, prova di recupero della 62esima edizione della Trieste San Giovanni in Pelago, Trieste, annullata quest'anno causa meteo. Il premio Challenge Coppa Ammiraglio Straulino, assegnato invece al miglior club classificato nella prova Inshore, va allo Yacht Club Adriaco, che oltre al successo di Lady Day ha visto il maxi Arca SGR del socio Furio Benussi conquistare la Line Honors. E stamattina è ricominciata la nostra trasmissione del mattino Buongiorno Regione e abbiamo raccontato una storia incredibile che forse pochi ricordano, l'operazione Atlantide dei giovani subacquei che nel 1969-1970 parteciparono degli esperimenti calandosi negli abissi del lago di Cavazzo. Tra gli acquanauti il velista Antonio Solero, che ricorda questa esperienza con noi. Classe 1944, Antonio Solero, maestro di sci di professione, alpinista e soprattutto velista per passione, è venuto nei nostri studi RAI di Trieste per raccontarci la sua vita da acquanauta quando nel 1970 partecipò al secondo esperimento Atlantide sul lago di Cavazzo. E dire che tutto capitò per caso. Antonio, 26 anni, originario di Sappada, studente universitario a Trento, si muoveva in autostop. Il passaggio me l'ha dato una persona che stava partecipando ad un esperimento di vita subacquea. Mi ha invitato ad andare a trovarlo. Io ci sono andato, mi hanno offerto di fermarmi e mi sono fermato. E lei era pronto per un'operazione così? Ma allora, io come molti buoni montanari non sapevo assolutamente nuotare e a dire il vero nemmeno adesso so nuotare. Ma mi hanno detto con le pinne non hai problemi, la muta se ti sganci i pesi ti serve da salvagente, quindi fidati, vai e non c'è difficoltà, vedrai che te la caverai bene. E così è stato. Qual era lo scopo di questi esperimenti? Noi dovevamo verificare la capacità di un gruppo di operatori subacquei, diciamo pure anche di operai subacquei, capacità di reggere nel tempo e di mantenere un buon rendimento professionale, intendo dire lavorativo, perché in quegli anni si ipotizzava la costruzione di strutture subacquee dalle quali far partire gli operatori per non dover ogni giorno fare lunghe e quindi inutili da un punto di vista lavorativo decompressioni. L'esperienza del lago di Cavazzo ha di fatto cambiato per sempre la sua vita, diventato sommozzatore per professione e poi velista. 14 attraversate oceaniche, di cui 3 in solitaria. La sua vita in un libro che sta presentando in questi giorni. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. E adesso andiamo alla casa circondariale di Trieste, dove oggi sono stati conferiti una ventina di diplomi di terza media e di certificazione linguistica. Il servizio. Emozionato e grato per l'obiettivo raggiunto, spero di non aver disturbato il vostro sonno, ha detto il primo dei 10 detenuti ai quali è stato conferito il diploma di terza media. Altre 20 persone, la maggior parte di loro detenuti stranieri, hanno ottenuto la certificazione linguistica. Un grande momento per la casa circondariale di Trieste, che punta molto sull'istruzione, sui percorsi educativi e la formazione professionale. Obiettivi spesso difficili da raggiungere per mancanza di strumenti, spazi e soprattutto di fondi. Il direttore Graziano Puglia. Si fa di tutto per attrarre progetti, attrarre finanziamenti dall'esterno e quindi questo è il mio lavoro, il mio principale, una creazione di una rete di richieste, di sovvenzioni che possono arrivare dal mondo terzo che abbia interesse e quello è il tipo di progettualità a cui io cerco di sopperire per reintegrare insomma la mancanza di fondi. Si punta sul lavoro di gruppo perché ad esempio anche la polizia penitenziaria deve garantire la sicurezza durante le attività nonostante l'insufficienza di organico. Ognuno fa quello che può. Dell'istruzione si occupa il CPA, il Centro per l'Istruzione degli Adulti, che lavora senza un personale docente carcerario. I docenti sono impiegati anche in altre realtà educative e spesso non hanno la formazione specifica. Emilia Colella del CPA. È il coronamento di tanta fatica, mettere insieme tanti pezzi di territorio, convogliarli in queste strutture che sono istituzioni totali e difficilmente si può attuare questo in qualsiasi altra parte d'Italia e quindi è soprattutto il coronamento di far vedere, di far uscire fuori queste persone come realmente sono, cioè che hanno una dignità, un'umanità. Sicuramente hanno sbagliato, ma non sono il reato che cammina. Nel corso della cerimonia è stata letta la poesia Pensieri sbarrati, che ha vinto la menzione d'onore al premio Battistutta, mentre si è esibito anche il coro. Trieste, Vaciuk, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ed era l'ultimo servizio di questa edizione del giornale radio regionale, in regia Giampaolo Zucchi e Walter Vidonis. In redazione ha collaborato Samantha Gon, da Daniele Lettige e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.